notte, sedia corta, si è scordata dove corre, dove corre, dove corre. Almeno per una volta, almeno per una volta. Tiro la vita per una foglia, si è fermata, se ne è accorta, si è scordata dove corre, dove corre. Per un